mesi mi indepensa. Dove andare al mare, brava la ecce raro. Ma a questa crisi mi sa che po' bucaro. A guarda piemontese, oi mamma quante spese. Pissa affitto, cadura solo un mese. 5.000 euro, finna casa vecchia. Papà c'è mi sa firma, fissa casa vecchia, yeah. Sagata vecchia, yeah. Sagata vecchia, yeah. Sagata vecchia, sa sa sa sa sa sagata vecchia. Andiamo a rumare, yeah. Andiamo a nisciare, yeah. Andiamo ad abbattare. Estate con sentina. È proprio una rovina. Andiamo a ballare da sera alla mattina. E questa è l'estate con sentina. Andiamo a Torre Mezzo, ci vado col mio mezzo. Tanto va vino, non ci va di mezzo. Io te lo dico, ci manco da un pezzo. Da da da da da da da, un pezzo. L'ho detto, l'ho ridetto, son DJ Valetto. E su passa pioggia io mi faccio un galletto. Con l'occhialetto mi sento bello in vista. Anzi mi sento proprio nutronista. Yeah, nutronista, yeah. Nutronista, yeah. Nutronista, no, no, no, no, no, no, nutronista. Sembra troppo questa canzone. Non te vado a fuga, gioia. Estate con sentina. È proprio una rovina. Andiamo a ballare da sera alla mattina. E questa è l'estate con sentina. Si è rotto il lettore CD. Pensaci tu a fare la musica con la tua voce.